Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Sono contenta di vedervi perché vi volevo fare notare un miglioramento del mio profilo. Non so se notate che finalmente c'è qualche cosa che supera il naso. Aspetto un bambino. Evidente, non è panettone. Poi qua a Milano naturalmente sono tutti super preoccupati. Ti devi mantenere in forma, devi mettere creme e oli speciali, fare ginnastica, non ingrassare, mi raccomando. Poi le amiche che per anni mi hanno detto: fai un figlio, è un'esperienza meravigliosa, magica, veramente straordinaria. Adesso sei incinta e come stai? Bene. Vedrai fra 15 giorni. Ma io veramente mi sento più forte, c'ho pure più capelli. Sì, anch'io avevo più capelli. Dopo il parto ti cadono tutti. Buongiorno a voi da Nicoletta Carbone. Molte di noi l'hanno sperimentato sulla propria pelle. Se si è diventate mamme avanti in età, probabilmente ci si è messa a guardare con un po' di invidia quelle mamme giovani che con grande disinvoltura si portano addosso il loro bebè. Del resto, quante volte, penso, mamme molto giovani hanno pensato che una maternità anticipata, insieme a tanti vantaggi, portasse con sé anche qualche limite, lo metto tra virgolette, potesse essere di ostacolo ad una carriera da poco iniziata, per esempio, oppure obbligasse a fare scelte di responsabilità molto anticipate nella vita. E poi l'idea che tu sei a casa, ad allattare, a cambiare i pannolini, magari le amiche, le compagne stanno divertendosi in discoteca. Insomma, cari amiche, la domanda di oggi è: qual è l'età giusta per diventare mamma? A voi com'è andata? Lo chiedo naturalmente alle mie amiche da casa, ma lo chiedo anche a tutti gli uomini all'ascolto. Quando siete diventati padri, avete avuto la percezione che quello fosse il momento giusto per la vostra compagna? Oppure, col senno di poi, vi siete detti: beh, lo avessimo fatto prima, o ancora avremmo dovuto aspettare ancora un po'. Quali motivi mettete alla base della vostra analisi? Motivi organici, motivi psicologici, esperienze legate alla costruzione della propria carriera, del proprio curriculum vitae? 800 24 00 24, una puntata basata proprio sui racconti. I messaggi al 349 238 6666. Intanto voglio salutare con grande affetto la professoressa Alessandra Graziottin, ginecologa e direttore del Centro di Ginecologia Medica dell'Ospedale San Raffaele Resnati di Milano. Bentornata. Buongiorno a tutti, un gran piacere anche per me essere insieme a voi. Ma saluto anche una mamma che è in linea con noi, è una mamma famosa, giornalista, conduttrice televisiva e ha appena pubblicato per Mondadori un libro che a me è piaciuto molto e che vi consiglio, si intitola Secondo Natura, impariamo a vivere bio, libro che tra l'altro ha un intero capitolo proprio dedicato alla nascita, perché lei è mamma, è Sveva Sagramola. Ciao Sveva. Ciao, grazie di avermi invitato, sono molto contenta. Senti Sveva, tu sei diventata mamma quando e com'è andata per te l'esperienza? Allora, io sono diventata mamma a 45 anni, sono riuscita a rimanere incinta e sono una mamma tardiva, ma questo semplicemente perché la mia vita non mi aveva dato l'opportunità prima di avere le condizioni per fare un figlio. Io ho sempre immaginato che sarei stata mamma un giorno, però avevo sempre pensato che era fondamentale avere una coppia e un progetto d'amore con un uomo per poter fare un figlio, e purtroppo la mia vita mi ha portato che prima di 40 anni mio marito non l'ho incontrato, e quindi fino a quel momento, che poi è l'età in fondo biologica in cui uno dovrebbe fare un figlio, no? Non ho potuto. Poi dopo è stato un po' faticoso, però alla fine a 45 anni sono riuscita a rimanere incinta, e per me è stata un'esperienza straordinaria tutto, dalla gravidanza a questo primo anno di maternità. Mia figlia compie il 10 maggio un anno, e rispetto a quello che dicevi prima ti posso dire che, per quello che è la mia esperienza, il fatto di esserci arrivata a quest'età ha fatto sì che io abbia avuto la possibilità davvero di godermi questa esperienza con una consapevolezza molto profonda, un desiderio appagato e soprattutto senza frustrazioni, perché io la vita me la sono vissuta, la mia carriera l'ho fatta, e quando a volte mi confronto al parco con delle mamme più giovani sento che invece loro un pochino soffrono, no? Del fatto che non possono uscire, che la carriera è un po' penalizzata, insomma che è complicato, eh? Eh sì, può essere complicato, ma ce lo facciamo raccontare da una donna. Abbiamo in linea con noi anche una donna che è diventata mamma molto giovane, che ha continuato comunque la sua carriera. Adesso intanto vi anticipo che è conduttrice con Beppe Braida di Saturday Night Live. L'avete già immaginato, è Eleonor Casalegno che è in linea con noi. Ciao Eleonor. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Che bellezza. Senti, invece, tu sei diventata mamma giovanissima. A 23 anni. Insomma. Sì, con la consapevolezza, nel senso che io mia figlia l'ho cercata, l'ho voluta, ecco, non è arrivata, insomma, casualmente, diciamo così. Quindi è proprio un desiderio che ho appagato, che desideravo e volevo fortemente. Senti, Sveva diceva al parco molto spesso incontro delle mamme giovani che insomma si sentono un po' limitate, no? È vero. Io penso che sia errato dire questo, perché non c'è un'età esatta per diventare madre, è qualcosa che tu senti dentro, un'energia che tu senti dentro, il momento lo avverti tu, non esiste età. Perché ci sono donne pronte a 20 anni e ci sono donne pronte a 40, quindi trovo che sia sbagliato dire che fare un figlio da giovane è meglio, come trovo che sia sbagliato chi dice che fare figli in età matura sia errato anche quello. Certo, quindi poi certo a tutto c'è un limite, ecco, insomma, diventare mamma a 16 anni o diventare mamma a 50 anni, io personalmente con le idee che ho lo eviterei. Sentiamo che cosa ci racconta la nostra professoressa Graziottin. Professoressa, due storie di maternità, due esperienze legate alla maternità molto simili ma anche molto differenti proprio per la prospettiva anagrafica con cui vengono raccontate. Quali sono dal punto di vista organico i pro e i contro di una gravidanza in giovane età o in età più avanzata? Le famose primipare attempate, termine che uso adesso e che non uso più, che detesto. Giustamente, ecco. Io mi ricordo l'orrore delle donne quando a 35 anni le definivamo, 30 anni fa, primi pare attempate, che era addirittura insultante. Vabbè. Comunque, entrambe le sue ospiti hanno detto due cose fondamentali. Il denominatore comune della felicità nel diventare madri è questo sentire profondamente che il cuore, il corpo, la mente sono pronti, ma anche che si è trovata la persona, il partner con cui il progetto d'amore che si concretizza nel figlio ha un valore esistenziale primario. Sì. Ed è vero e condivido che non c'è un'età ideale in cui noi dobbiamo dire dovremmo farlo tutti a quell'età. Direi che noi abbiamo in realtà una sintesi di età diverse. Senz'altro dal punto di vista biologico l'età dell'oro è 18-20 anni. Questo dal punto di vista strettamente biologico, perché abbiamo il massimo di fertilità ovarica. Lei pensi che a 30 anni la donna ha già perso l'88% delle gameti, quindi delle cellule fecondabili femminili, degli ovociti, e a 40 anni ha perso il 97%. Quindi dobbiamo dire con molta chiarezza, attenzione, non è un'età infinita quella che ha la donna. Poi che con la fecondazione assistita o ovodonazioni si possa far figli anche a 60 anni è un altro discorso. Certo. Ma dal punto di vista strettamente biologico l'età ideale sono i 20 anni. Poi abbiamo un'età emotiva, ma definirei anche esistenziale, che è quella della realizzazione personale, in cui da un lato c'è una maturazione della persona, la capacità di dare a un figlio, e dall'altra quella anche di avere un progetto su di sé che arriva a una certa maturità. Ecco che allora ci spostiamo verso i 30 anni, l'età media in Italia adesso è di 31 anni e 7 mesi come età media addirittura, quindi molto avanzata se vogliamo. Poi abbiamo l'età di lui. Gli uomini sono sempre più, siamo pronti sempre più tardi ad avere un figlio. Ho tantissime pazienti che vengono per la visita ginecologica normale che mi dicono a 27-28 anni, professore, io sarei felicissima, prontissima. Però lui non adesso. Vuole, lui non se non la sente. Lui vuole proprio sapere, per la carità, dice no, ma io sono un ragazzo, io voglio dire, eccetera. E poi c'è un altro fatto obiettivo, la quarta età, che è l'età economica della coppia, perché ho anche tanti ragazzi che mi dicono, noi saremo pronti, ci adoriamo, ci vogliamo bene, siamo pronti per avere un bimbo, però, ma non possiamo affrontare la spesa. Quindi quindi noi abbiamo un'età biologica, un'età diciamo emotivo affettiva, esistenziale, un'età di lui e quindi anche progettuale della coppia, un'età economica. La sintesi di tutte queste fa sì che poi le differenze nel momento ottimale siano molto diverse, e purtroppo quando non tutte queste età collimano arriviamo ad avere moltissime donne a 40 anni che hanno il famoso last minute baby, la ricerca disperata, perché diventa spesso disperata, di questo bimbo che poi non arriva perché mi dicono: ma nessuno mi ha detto con questa chiarezza che a 40 anni il 97% dei miei ovociti era finito, che il 40% delle gravidanze va in aborto spontaneo, e purtroppo, e lo sottolineo, abbiamo anche un 8% di bambini malformati, che è più del doppio dell'età che abbiamo a 20 anni. Quindi attenzione, che ci sono anche dei limiti in più, e concludo brevemente: teniamo presenti i limiti biologici della donna, perché deve non solo avere ancora ovociti, e va bene, ma avere un utero che non sia troppo fibromatoso, se no non andiamo da nessuna parte, non avere un'endometriosi, non aver avuto delle infezioni pelviche, più passano gli anni più aumenta la promiscuità e più queste ci sono, che possono non solo chiudere le tube ma anche rendere l'endometrio, cioè lo strato interno dell'utero, poco idoneo ad accogliere l'uovo fecondato. Quindi attenzione, insomma, ai limiti biologici, perché noi abbiamo un mito di onnipotenza: adesso faccio figlio quando mi pare. Non è proprio così. E comunque una svolta. A proposito di svolta, Sveva, nel tuo libro tu racconti, direi mi è piaciuto perché in modo molto sereno, senza eccessi, la svolta bio della tua vita. E proprio nel tuo libro, proprio un capitolo è dedicato alla tua maternità, è quello che apre il tuo libro. Ci racconti, ci accompagni nelle piccole scelte della quotidianità che hanno un po' contraddistinto il tuo modo di vivere una gravidanza il più naturale possibile. Forse anche questo fa parte di quella consapevolezza di cui tu parlavi prima, no? Sì, in realtà io questo libro l'ho scritto proprio dopo che ho avuto Petra, perché è stato quando sono rimasta incinta che ho sentito un bisogno di contatto con la natura diverso da come l'avevo sempre avuto. Sì. È chiaro, ti viene un istinto protettivo diverso e poi in qualche modo ti affidi alla natura. E quindi io volevo mangiare più sano possibile, volevo non mettermi addosso cose strane, chimiche. E siccome sono tantissimi anni che conduco Gheongheo tutti i pomeriggi, lavoro su queste tematiche, ho acquisito un patrimonio di piccole conoscenze, ho cercato di radunarle tutte e metterle in questo libro, perché vivere bio non è una cosa alla portata di pochi. Sai, il problema è che oggi vivere bio costa, le cose non si capisce perché, le cose ecologiche, le cose che fanno bene all'ambiente devono essere sempre più costose delle altre. Però ecco, non è una cosa alla portata di pochi, perché in realtà si tratta di avere delle consapevolezze, delle conoscenze di certe cose, di poter fare delle piccole scelte, di organizzarsi per esempio per poter ritrovare un rapporto diretto con quello che mangiamo e andare a comprare in campagna. Ecco, forse è una sensibilità che è cresciuta sicuramente perché sì, il tuo lavoro ti porta ad averla, ma forse perché, come sottolineavi tu, avevi proprio un'altra vita di cui occuparti, no? E quindi grandissime. Sì, ti viene ovviamente una responsabilità maggiore. Certo. A quel punto è una creatura completamente indifesa che devi proteggere, a cui vuoi cercare di dargli il meglio, no? E quindi è stato quello. Io poi il primo capitolo del libro è dedicato alla nascita, al parto, perché io dovendo partorire alla soglia dei 46 anni ero automaticamente orientata verso un parto cesareo. A me questa cosa non mi stava bene, io ho detto: io voglio, farò il cesareo se ce ne sarà bisogno, però se le condizioni lo permettono. Solo che per riuscire a partorire in modo naturale sono dovuta andare a cercarmi un ginecologo che avesse al suo attivo una percentuale di parti cesarei come raccomanda l'Organizzazione Mondiale della Sanità, intorno al 10-15%, perché oggi è pazzesco come ti indirizzano automaticamente all'intervento chirurgico. Sì, questo, per partorire. A questo abbiamo dedicato anche una precedente puntata e questo è un problema vero. La professoressa Graziottin potrebbe confermare, magari lo riprenderemo, ma io volevo chiedere a Adele Noir: un figlio giovane, 23 anni, nel pieno, no, della tua attività che poi hai comunque ripreso, un figlio voluto, molta energia però a 23 anni, che cosa ti ricordi? Ricordi dei primi anni di te, mamma così giovane? Ma guarda, io ricordo, ci fu il momento in cui mi videro tra le braccia mia figlia, e quando arrivò a trovarmi mia madre, la prima frase che le dissi fu: pensa, cioè, quanto ero inconsapevole di ciò che una donna poteva realmente fare, perché la guardai e le dissi: mamma, hai visto cosa ho fatto? cioè perché per me era impossibile che un essere umano potesse dare vita a un'altra vita, una vita perfetta, cioè due mani, due gambe, due occhi, cioè quel mistero meraviglioso che è la procreazione, che come tale deve rimanere, cioè non voglio più di tanto spiegazioni scientifiche perché mi piace questo romanticismo. Sicuramente a 23 anni c'è un'energia, una carica che poi va scemando, ma normalmente, biologicamente, oggi io ne ho 34, sicuramente non sono come a 23, è cambiato. E infatti ricordo che in gravidanza facevo di tutto, ho fatto anche un trasloco, cioè quindi avevo energia da spendere. E anche un pochino di più di incoscienza forse, no, Elenoir? Ma disinvoltura, ecco. Inesperienza, nel senso che tu non sai a cosa va incontro, ma quello penso che anche una donna a 40 anni al primo figlio non sa a cosa va incontro. È vero, quante ansie, uno dice ma saprò occuparmi di lui o di lei. Marilena da Rimini, buongiorno, 800 24 00 24, oggi una puntata proprio basata sulle vostre storie. Marilena, buongiorno. Io sono una ragazza di 38 anni, sì, e ho due bambini, uno di 9 anni e uno di 6 anni, un maschio e una femmina. E li ho avuti, il primo a 29 anni, sì. È stata una scelta, cioè una cosa decisa, voluta, e penso sinceramente che avere un figlio non sia poi un sacrificio, cioè come dicevate prima, non posso andare in discoteca, oddio, non posso uscire con le amiche. No, perché non è che noi dicevamo questo, dicevamo che magari ci sono delle, per una mamma molto giovane che si trova ad affrontare una maternità e poi ad occupare del bambino, certo se molto giovane ci sono delle scelte, penso magari scelte lavorative, di divertimento, insomma il pupetto ti impegna, ma questo Marilena, lei ha avuto i suoi bambini, insomma adesso è considerata giovane, ai tempi delle nostre mamme 28-29 anni era già una mamma un po' matura, professoressa Graziottin. Sì, certamente, l'età ideale era 20-22, ancora adesso noi vediamo un'età molto diversa a seconda della professione o meno della mamma. Se la donna è casalinga tende comunque ad avere il figlio intorno ai 22-23 anni, se è impiegata intorno ai 28-29, e se ha invece una laurea impegnativa anche dal punto di vista poi dei master e cerchi lavoro, parlo legge, parlo ingegneria, parlo medicina, andiamo oltre i 35, quindi c'è veramente un condizionamento diverso a seconda di quello che è il destino della vita o la scelta della vita. Certo, reale. Abbiamo analizzato tutte le variabili che devono combaciare per far sì che una donna possa essere pronta per avere un bambino. Antonio, buongiorno a lei da Como. Buongiorno, buongiorno. Credo di essere il primo uomo della trasmissione, no? Sì, è vero, no, sì. Stiamo facendo un po' un gineceo, Antonio, esatto, ma io sono contenta che lei intervenga, molto, grazie. No, perché avere i bambini è una cosa meravigliosa, per cui spero che magari sia anche una spinta a qualcuno che magari è indeciso questa trasmissione. Sì, soprattutto Antonio... Ecco. Voi parlate delle donne, ma bisogna parlare anche degli uomini, perché comunque... ci sono, non sono da soli i bambini ovviamente. Senta Antonio, ma noi parliamo di donne, vede che la professoressa Graziottin sente, avrà sentito, ha detto ci sono sempre di più uomini che si dicono non sono pronto per diventare padre, quindi noi adesso parliamo di mamme, parliamo di bambini, ma per avere un bambino c'è bisogno di una mamma e c'è bisogno anche di un papà. Se c'è un uomo vicino che comunque dà una mano, credo che la donna magari sia anche più propensa anche certo. Lei è papà, Antonio? Sì, una bambina di 3 anni. Adesso vediamo di dare sorellino o fratellino, ecco, tutto qua. Grazie Antonio, auguri. Noi salutiamo Sveva Sagramola ed Eleonora Casalegno che sono intervenute, ci hanno dedicato il tempo tra le preparazioni dei programmi. Grazie alle nostre mamme. Grazie a voi. Mamme, grazie davvero a voi. Grazie, io ricordo il libro anche di Sveva, Secondo Natura, Impariamo a vivere bio, che non serve solo alle mamme. No, assolutamente. Grazie, un abbraccio. Grazie, invece grazie. La professoressa Graziottin ce la teniamo tutta per noi. 800 24 00 24, continueremo con storie di mamme, mamme giovani, mamme meno giovani. Naturalmente invitiamo, come Antonio, anche gli altri, i papà ad intervenire. Vi sentite pronti? A tra poco. Essere e benessere. Ci siamo! Testa di bambino e sfitta! Dammi la stringa, un'altra spinta e il suo bambino! Ci siamo! Ultima spinta! Pronta! Sì! Ci siamo! Pronta e via! Coraggio! E fuori! No! L'abbiamo fatto! Ce l'abbiamo fatto! Ancora grappa, per favore! Ancora grappa! Apri gli occhi, dai uno o due sguardo a figlio. Un maschietto, un bellissimo maschietto. Saluto papà. Grazie. No, grazie a voi di aver scelto me. È anche molto affascinante. E anche di grossi testicoli. E beh, c'era da aspettarselo. Piccolo bambino con grosso topolino. Ecco, ecco qui. Arrivederci. Sì, grazie. Avete visto? Lo so, è bellissimo, vero? Siamo una famiglia. Abbiamo ripreso con questa scena dal film Nine Months, dove c'era anche, se ve lo ricordate, l'avete visto, un bellissimo Hugh Grant, per riprendere il tema della puntata. Esiste un'età per diventare mamma? O esiste un'età migliore di un'altra? Insieme a noi abbiamo la professoressa Alessandra Graziottin, ma ci hanno raggiunto anche altre due mamme. Chiara Cecilia Santamaria, autrice di Quello che le mamme non dicono e autrice anche di un blog, ma che davvero.it, e stiamo in attesa, ma c'è, eccola con noi, Elena Santarelli. Ciao Elena. Ciao, buongiorno. Conduttrice di Plastic. Elena, grazie per essere con noi. Prego. Allora, professoressa Graziottin, abbiamo detto che ci sono tante cose, no, che possono far dire ad una donna, ad una coppia, mi piace dire di più, perché è naturale, che è arrivato il momento di avere un bambino. Ma la maternità ha degli effetti anche sullo stato di salute psicofisico della donna. Cambiano questi effetti se la maternità arriva in età giovane o in età un pochino più avanzata? Ci sono diverse vulnerabilità. Vorrei, se mi permette, aprire una piccola parentesi sul fatto che, poiché facciamo figli sempre più tardi qui in Italia, lei pensi che in 10 anni l'età media è aumentata di 4 anni, sì, dobbiamo proteggere la fertilità. Io ho alcuni consigli proprio veloci a tutte le ascoltatrici. Ieri abbiamo parlato della fertilità che è caduta negli uomini, oggi diamo consigli alle donne. Assolutamente. Voilà. Il primo consiglio è di usare sempre il profilattico, perché le malattie sessualmente trasmesse, in particolare la clamidia e la gonorrea, vanno a ledere sia l'endometrio sia le tube, ci danno o gravidanze extrauterine o sterilità tubarica. Poi assolutamente no al fumo. Pensate che a 30 anni una donna che fuma 15 sigarette al giorno ha un ovaio come una di 40. Quindi attenzione. Poi mangiare sano, movimento fisico regolare per essere normopeso. Perché? Perché la donna normopeso ha meno rischio di diabete, ipertensione, eccetera, quindi arriva anche a 40 anni con un corpo che dal punto di vista vascolare e metabolico è più sano, più giovane, quindi può reggere meglio una gravidanza. Dormire giusto, perché la carenza di sonno è lo stress biologico più forte che abbiamo, e noi donne purtroppo, per fare tutto, me inclusa, dormiamo meno di quanto dovremmo. Sì. E poi l'ultimo consiglio, controllo ginecologico annuale. In questo modo possiamo proteggere la nostra fertilità e quindi consentirci di assecondare quel desiderio emotivo quando saremo pronte, con un corpo però che è stato protetto. Avete segnato tutto? Ecco, ritroverete naturalmente i consigli della professoressa Graziottin anche sul nostro sito. A proposito di sito, ricordatevi il nostro Daily Lab. Entrate ogni giorno nella nostra officina del benessere, dove i nostri esperti vi suggeriscono quotidianamente un consiglio per imparare e continuare a prenderci cura di noi stesse, diventare proprio protagoniste attive della nostra salute e del nostro benessere. Parlavo al femminile, ma è rivolta anche agli uomini. Professoressa Graziottin, fare un figlio fa bene, mi scrive un'ascoltatrice, ma è la domanda che le avevo posto io, sì, prima della pausa sulla fertilità. Si diventa più forti, mi scrive un altro ascoltatore, che è Carlo. Ma professoressa, rapidamente, prima di dare la parola alle nostre due mamme. Molto molto importante l'attenzione a due cose. Uno, all'anemia. Attenzione, una donna anemica ha un rischio doppio di depressione e ha molte più difficoltà alla concentrazione, all'attenzione, alla memoria, e questa riduzione del senso di benessere mentale si ripercuote poi sul suo benessere emotivo. Attenzione alla depressione in gravidanza e nel postpartum, ancora purtroppo trascurata, che fa poi dire alla donna: ma perché ho fatto un figlio? In realtà noi dobbiamo essere vicini come mariti, come famiglia, come medici alla donna che attraversa un momento di depressione o un lungo periodo di depressione, perché purtroppo quando la donna è depressa tutta l'interazione col bambino, già in pancia, attenzione, perché c'è un attaccamento al bambino essenziale che parte nei 9 mesi, questo processo di amore che cresce, che nutre il bambino in pancia, succedono cose straordinarie durante i 9 mesi di gravidanza, magari ne parliamo un'altra volta. E nel postpartum una mamma depressa interagisce poco, non interagisce col bambino, e questo lo depriva di una nutrizione emozionale, emotiva, affettiva essenziale, che si ripercuote poi sulla sua capacità, sì, sia emotiva sia di apprendere. Quindi le grandi vulnerabilità sono sul fronte biologico, in particolare all'anemia, e poi naturalmente un monitoraggio della gravidanza, certo, per scontato, e attenzione alla depressione, perché questa purtroppo è ancora sottovalutata, sottodiagnosticata, sottotrattata. Questo è un grande nemico nell'ombra della felicità di essere madri, di essere papà, di essere genitori veramente generosi nel confronto del proprio figlio e del suo futuro. Elena, hai conosciuto mamme vicino, tue compagne, tue amiche, che dopo la gravidanza si sono confrontate con una tristezza o nel caso più severo una depressione? Io ho avuto una tristezza postparto, quindi non è che ho avuto bisogno di confrontarmi con altre mamme. Non era depressione proprio, la depressione quella grave, però insomma non stavo bene, ma in un mese sono ritornata normale, diciamo la normalità. Ecco, allora Elena, proprio io ho piacere che tu sia qua per dire alle mamme all'ascolto. Sì, mi senti? Sì, vorrei che tu quindi spezzassi un po'. Aiuto, io non sono andata dallo psicologo, da un dottore che si occupa proprio di questo, perché mi hanno, cioè comunque era una cosa lieve, mi veniva da piangere più spesso, non volevo tenere il bambino in braccio, avevo paura di fargli male, quindi cose che possono succedere, visto che con l'espulsione della placenta, gli ormoni, chiamiamole così, della felicità, vanno un po' via per fare spazio a degli ormoni un po' più tristi, ecco. Però sono cose che possono succedere da 1 a 10, c'è chi ce lo può avere a livello 2, 3, 4, a livello 10, ecco, e poi si sentono quelle disgrazie che magari di quelle donne che non sono state aiutate. Quelli sono casi gravi, il mio era una cosa lieve. Lieve, però ne ho parlato con mamma, il mio compagno, quindi insomma tutto si è risolto. Elena, ed è molto carino da parte tua parlarne con noi, perché puoi aiutare molte donne all'ascolto che magari si sentono, sono mamme, si sentono inadeguate e magari temono di proprio chiedere aiuto per essere magari mal giudicate, no? Come non vuoi bene al tuo bambino. Ma che cosa c'è? Cos'altro le mamme non dicono? Lo chiedo a Chiara Cecilia Santamaria. Tu hai scritto proprio un libro, Quelle che le mamme non dicono. Diventata mamma a 28 anni, giusto? A 27 ho aggiunto un anno. Chiara, tu hai proprio deciso, proprio dopo la tua maternità o durante la maternità, di scrivere un blog. Perché io sentivo una tua intervista, dice tutte le mamme non te la raccontavano nel modo giusto. Tu sentivi delle cose diverse da raccontare. Sì, intanto essendo diventata mamma a 27 anni non avevo molte amiche della mia stessa età con cui parlare, con cui confrontarmi, e poi vedevo questo immaginario collettivo, questa figura di mamma che è un po' stereotipata, diciamo, è un po' sempre felice, sempre dolce col bambino, si parla della maternità in toni sempre molto pacati, molto edulcorati, invece la maternità porta un carico di emozioni bellissime e positive, però può portare anche dei sentimenti ambivalenti nei confronti della situazione nuova, di questo tsunami esistenziale che ti trovi a vivere. E appunto le mamme non riescono a confessare questo, non riescono a confessare di avere il baby blues, quindi questa leggera tristezza che appunto, come diceva Elena, può raggiungere diversi gradi fino a diventare grave, e non riescono neanche ad ammettere questi sentimenti ambivalenti. Voglio dire, è sano, è normale. E avere dei sentimenti positivi per il bambino, ma certi giorni rimpiangere anche la vita di prima. Vorrei proprio farmi un viaggio, ma non posso, insomma. Senti Chiara, in questo senso internet ha dato veramente una mano alle mamme che si ritrovano in rete, si scambiano idee, impressioni, paure. Io penso che sotto questo aspetto, professoressa Graziottin, insomma, questa rete aiuti tante mamme, giovani e meno giovani, ad affrontare un po' come si faceva una volta, quando c'erano le famiglie allargate, si condivideva tutto, no? I timori, le speranze, le cose positive, i dubbi. Che dice? Assolutamente sì, su internet ci sono molte perle, oltre a tanto pantano. Beh, certo. E c'è questa possibilità straordinaria, questa davvero straordinaria, di riconoscersi tra gruppi di pari, nel senso, le mamme con le mamme, gli adolescenti, gli amanti di questo e di quello. E questo, quindi, è senz'altro positivissimo, come è importante poter condividere, questa mi è piaciuta molto questa affermazione di Chiara Cecilia Santa Maria, ossia le ambivalenze. E ricordo una cosa molto importante, che in ogni donna che diventa madre si riconfronta con la propria madre. Mamma. E con le ambivalenze che ci sono state in questo rapporto. Se è stato un rapporto difficile, un rapporto ferito, un rapporto che magari non si è chiarito in alcuni nodi essenziali, o in cui c'è stata una sensazione, magari a torto, di essere meno amata rispetto ai fratelli, o comunque di non essere la figlia quella sognata, no? La bimba perfetta, bella, buona e brava con le 3B. Ecco, in tutte queste bella, situazioni... buona e brava con le 3B gliela ruberò. Ma questo è vero. Intanto io... la mia mamma, la bimba con le 3B. Io voglio salutare, ringraziare Chiara Cecilia Santa Maria, ricordo il libro Quello che le mamme non dicono, Rizzoli, e il blog machedavvero.it, e saluto e ringrazio con un abbraccio Elena Santarelli. Grazie per essere e benessere. Eccoci insieme, diamo subito la linea a Marzia che ci chiama da Roma. Buongiorno Marzia. Buongiorno, senta, mi scusi l'emozione. Ma si immagini. Io ho avuto il primo figlio a 25 anni e ci siamo sposati, insomma, con mio marito, che lavorava soltanto lui. C'eravamo appena laureati, abbiamo deciso di fare questa mattata di sposarsi. Che carini. Quindi niente, i sacrifici sono stati tanti. Io mi ricordo che quando feci il test di gravidanza ridevo e piangevo, non sapevo se essere felice o contenta, perché mi sentivo ancora piccola, ancora figlia, però insomma questa scoperta di avere un bimbo dentro di me, insomma, è stata fantastica. Certo. E quindi io il messaggio che vorrei dare, insomma, alle donne è questo: di sacrifici, se quando uno si sposa giovani, soprattutto in questa società dove non c'è lavoro, dove le difficoltà sono molte, e diciamo di sacrifici se ne devono fare tanti. Certo. Però alla fine vale la pena. Io il secondo figlio l'ho fatto a 31 anni, sicuramente c'era una maturità maggiore, perché sapevo che cosa mi aspettava, a che cosa andava incontro. No? Esatto. E quindi c'è stato anche un atteggiamento verso il secondo figlio, certo, forse diverso, di maturità maggiore. Però ecco. Grazie Marzia, grazie. Mi è piaciuto quando ha detto abbiamo fatto una mattana. Grazie Marzia, avete fatto una mattana sana. 800 24 00 24. Voglio salutare il dottor Filippo Ungaro, responsabile di comunicazione e campagne di Save the Children Italia. Buongiorno dottore. Buongiorno a voi. La facciamo entrare in questo gineceo perché vogliamo parlare con lei del 12° rapporto sullo stato delle madri nel mondo che Save the Children ha appena reso disponibile. Sì. Leggo dal vostro rapporto: 48 milioni di donne partoriscono nel mondo senza assistenza professionale, 2 milioni completamente sole. Come ci commenta questi dati e ci porta poi a fotografare la situazione in Italia? Certo, sì. Beh, purtroppo, insomma, come ha detto lei, con questi pochi dati la situazione non è sicuramente bella per tantissime mamme, future mamme in tanti paesi del mondo. Ovviamente parliamo dei paesi più poveri. Questo rapporto che noi facciamo stila una classifica dello stato delle madri, dello stato di salute e di benessere delle madri nel mondo, in base ad alcuni indicatori. Naturalmente agli ultimi posti ci sono i paesi dell'Africa subsahariana, l'Afghanistan, la Repubblica Democratica del Congo, i paesi più poveri. Sì. Ma l'Italia... ci sono i paesi scandinavi. L'Italia non occupa una posizione felicissima, purtroppo, anzi, perché e scende dal 17° posto dello scorso anno al 21° posto, e questo perché ci sono dei parametri sicuramente non buoni per le donne. Per esempio, le donne sedute in Parlamento d'Italia sono il 20%, addirittura una percentuale più bassa dell'Afghanistan, dove troviamo il 28%, del Burundi e del Mozambico. L'utilizzo della contraccezione in Italia è il 41%, in Norvegia dell'82%, Botswana, Zimbabwe, Egitto, Tunisia hanno percentuali più alte di utilizzo delle contraccezioni da parte delle donne. Ovviamente questo determina una posizione in classifica non buonissima. Anzi, siamo addirittura calate, ma voi avete fatto anche un altro rapporto che avete presentato insieme a questo, che piccole mamme. Quindi piccole mamme significa bambine, mamme che diventano mamme molto, molto presto, quando ancora dovrebbero studiare, minorenni. Quante sono in Italia? Sono circa 10.000, sono mamme teen, cioè tra i 14 e i 19 anni, e di queste 10.000, 2.500 sono minorenni, quindi sono mamme italiane per la stragrande maggioranza, l'82%, ma anche mamme straniere, una percentuale più bassa ovviamente. La concentrazione è maggiore nel Mezzogiorno, quindi al sud e nelle isole. E purtroppo queste mamme, poi gran parte di queste mamme sono da sole, quasi la metà sono da sole, cioè non hanno un compagno o un marito, e sono appunto doppiamente vulnerabili, perché affrontano il delicato periodo dell'adolescenza, comunque delicato di per sé, con una maternità e con tutti i problemi. Quei problemi che questo dà. Io vorrei, in chiusura, sono dati che fanno riflettere, che metteremo naturalmente sulla nostra pagina, la nostra home page, ma io vorrei in un minuto, anche se bisognerebbe dedicare ore, un commento della professoressa Graziottin a questi dati di Save the Children, e così possiamo chiudere la nostra trasmissione. Professoressa Graziottin. Volentieri. Il fatto che in Italia la contraccezione è fatta poco, quella ormonale è addirittura al 21%, quindi siamo proprio messi malissimo, ma il dato sulle giovanissime, noi dobbiamo insistere sull'importanza della contraccezione ormonale per le ragazzine, possono prenderla anche a 14 anni, anche a 12, l'importante è che siano protette dalle gravidanze indesiderate, ma che sempre usino o impongano l'uso del profilattico. Ormai ci deve essere un'educazione del giovane maschio, mi rivolgo ai padri in ascolto, perché loro sono le persone più credibili per dire al figlio: guarda che il profilattico è un amico tuo, del tuo futuro e della salute della donna a cui vuoi bene, per una sera o per la morte o per tutta la vita. E questo è il messaggio più importante. Invece noi continuiamo a pensare che i nostri figli siano ancora nella valle dei sogni, quando hanno già un'attività sessuale. Vi ricordo solo questo dato: un'indagine in cui sono stati interrogati contemporaneamente genitori e figlie femmine di meno di 15 anni, chiedendo ai genitori: lei pensa che sua figlia beva? I genitori dicevano sì nel 4% contro il 22% che lo diceva sì, e pensa che sua figlia abbia rapporti sessuali? 8% forse sì, le figlie erano al 38%. Allora, quando i genitori dormono a questa maniera, è chiaro che poi esponiamo queste figlie a esperienze troppo precoci, il genitore sia così distratto è anche un'indicazione che la bimba, la ragazzina, cerca più frequentemente fuori dalla famiglia un affetto che spesso baratta con il sesso, e questo è gravissimo, e poi le espone a una doppia delusione. Professoressa Graziottin, la ringrazio. Dottor Ungaro, grazie anche a lei, e ricordiamo il rapporto, 12° rapporto sullo stato delle madri nel mondo, alcuni dati li trovate anche sull'home page. Buona giornata a tutti, a domani. Essere e benessere.